9 in punto, la versione di Oscar. Buon lunedì, buon inizio settimana. Il tema di cui ci occuperemo oggi è quello al centro dell'incontro organizzato dalla FAO a Roma in questi giorni. Sapete, la FAO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite che ha il tema della fame e della lotta per migliorare l'equilibrio delle risorse alimentari in tutto il pianeta. La ospitiamo in Italia e per questo tradizionalmente diamo un contributo al sistema multilaterale delle relazioni internazionali anche ospitandola. E in questi giorni un grande incontro di capi di Stato e di Governo, a dire la verità non quelli dei paesi avanzati dell'OCSE, quindi non ci sono molti leader occidentali, c'è naturalmente Berlusconi che è lì dalle 8.45, stamattina il Papa interverrà ai lavori a cui sono presenti invece molti leader di paesi africani in via di sviluppo. In estrema sintesi, vedremo con gli ospiti i temi maggiori di cui si discuterà in questi giorni. Avrete letto questa nota di colore dello sciopero della fame durato 24 ore, a dire la verità, del segretario generale Jacques Diouf della FAO per sensibilizzare l'attenzione dell'opinione pubblica intorno alle richieste che la FAO avanza. Le richieste in buona sostanza sono innanzitutto risorse finanziarie cifrate intorno a 44 miliardi di dollari per salvare dalla fame milioni di persone. È una cifra alla quale i governi non arrivano, malgrado sia una cifra trascurabile, modesta, se pensiamo che i soli programmi offerti, i pubblici di sostegno offerti al sistema bancario internazionale in quest'ultimo anno sono superiori ai 3.000 miliardi, rispetto ai quali questi 44 possono sembrare poca cosa, eppure questa poca cosa non si riesce a mettere insieme. E quindi anche nella dichiarazione finale, che costituirà lo sbocco di questi lavori, si deve spostare più in avanti di altri 15 anni l'obiettivo temporale nel quale invertire il processo di aumento di coloro che invece sono sottoposti alla fame e anche alla morte per fame. Gira uno spot molto efficace con Jacques Diouf che ricorda a ciascuno di noi che ogni 6 secondi muore un bambino per fame. E malgrado gli anni di benessere in espansione nel mondo di cui siamo reduci fino alla crisi economica, naturalmente, ciò malgrado, ripeto, il bilancio delle risorse alimentari non è riuscito a migliorare in quelle parti del mondo in cui ancora di fame si muore, soprattutto in Africa. Ecco, naturalmente a seconda di dove si indirizzi lo sguardo dell'osservatore e quale sia il punto di partenza, le ragioni possono essere diverse e cercheremo di analizzarne alcune, se più politiche, se di mercato, se di politica internazionale, in che mix tra loro messi questi fattori. E quindi vi presento intanto gli ospiti che abbiamo collegato. Abbiamo innanzitutto con noi Luca Alinovi, lo ringraziamo, che è un economista e un agronomo rappresenta più direttamente in questa nostra trasmissione il punto di vista della FAO, perché lavora anche come economista per la FAO. Buongiorno Alinovi. Buongiorno a lei e ai vostri ascoltatori. E abbiamo collegato con noi anche il professor Pasquale De Muro, che insegna economia a Roma 3. Buongiorno professor De Muro. Buongiorno a tutti voi. Professor Alinovi, ci aiuta intanto a capire, partiamo da un dubbio di scetticismo che io le pongo in maniera un po' piatta. Dopo decenni una parte dell'opinione pubblica dei paesi occidentali ritiene che in realtà queste organizzazioni multilaterali delle Nazioni Unite abbiano un difetto essenziale, siano troppo pesanti, troppo burocratiche, in definitiva anche la FAO, 2/3 del suo bilancio va per gestire la struttura. In realtà, per come lei conosce, per come ha lavorato all'interno di questa struttura, obiezioni di questo tipo, cioè che gli aiuti multilaterali diventano semplicemente una grande ragione invocata per giustificare gli apparati che li gestiscono e magari anche i governi che li prendono, più che i cittadini affamati a cui dovrebbero essere rivolti, in che misura è giustificata, in che misura invece è un eccesso di obiezione liberista di quelli come me, insomma? Ecco. Guardi, mi piace cominciare proprio da questo punto. Ho una reazione immediata, ma poi rispondo alla sua domanda. La reazione immediata è che il summit non è circa la FAO, ma è circa un tema che è fondamentale, è un disastro dell'umanità, è un errore collettivo di cui la società intera internazionale dovrebbe farsene un grande esame di coscienza per 1 miliardo di persone, più di 1 miliardo di persone che rischiano di morire di fame ogni giorno, cioè 1 ogni 6, è un problema che va molto al di là delle dimensioni multinazionali. Però questo non, dico questo non per scappare dalla domanda che lei pone, che mi sembra lecita, ma alla quale mi sembra anche importante dare una risposta. L'idea che questi multinazionali delle organizzazioni internazionali siano qualcosa di grande è un'ipotesi drammaticamente non corretta. Il nostro budget annuale per far funzionare tutta la macchina sono 350 milioni di dollari, cioè la cifra di una piccola media impresa italiana, e ci viene chiesto di fare una quantità di attività enormi su tutto il segmento agricoltura, quindi credo che sia, già come volumi una dimostrazione abbastanza chiara che non sia quello il rischio. Personalmente, poi, avendo passato 19 anni della mia vita in Africa, e dei quali solamente 4 in una capitale e tutti gli altri passati in mezzo al villaggio, a piccoli villaggi, a lavorare con la gente quotidianamente, spesso senza acqua e senza cibo, devo dire che lo trovo un pochettino, non necessariamente corretto, perché non vuol dire che ci sia una burocrazia. Aggiungo solamente un punto su questo aspetto: la FAO è in un processo di enorme riforma. C'è una coscienza di cose che non hanno funzionato, stiamo cambiando abbastanza radicalmente la nostra direzione, anche in una forma di autocritica e autorevisione seria. Sarebbe importante che anche questo venisse messo nel quadro d'insieme. La FAO fa soprattutto analisi, è un'organizzazione che si occupa soprattutto di guidare e aiutare le politiche, quindi è normale che molti dei costi servano a pagare conoscenza, quindi a pagare esseri umani e non necessariamente a pagare trasferimento nei paesi dove spesso l'aiuto bilaterale è molto più efficace ed è molto più utile. Nell'esperienza che ha, questo processo abbastanza singolare per il quale siamo reduci da anni di crescita molto, molto marcata e tutto sommato abbiamo contemporaneamente sottratto centinaia e centinaia di milioni di individui su questo pianeta dall'economia, da dove stavano, cioè sotto la linea della sussistenza, penso a paesi asiatici, alla Cina per esempio, cioè, e contemporaneamente invece soprattutto nell'area africana abbiamo visto peggiorare il bilancio della linea di povertà, sopravvivenza. Questo dipende secondo lei dalla diversa distribuzione dei fattori di accesso alle fasi primarie dello sviluppo in queste aree del mondo? Dipende dal fatto che lì c'è un'anomalia proprio di regimi politici che rende impossibile anche sfruttare risorse che pure ci sono? Cosa diavolo è che ha determinato negli anni che abbiamo alle spalle il fatto che è aumentato il numero dei morti per fame? Diciamo che la risposta più semplice che i numeri ci dicono è che sicuramente sono circa 20 anni in cui abbiamo un decremento continuo di investimento nel segmento agricolo. Ora, l'argomentazione tipica che sentiamo spesso è dire: ma come, abbiamo più cibo di quanto ce ne serve, quindi in realtà qual è il problema? È vero, ma il cibo che abbiamo in eccesso è spesso, anzi direi quasi sempre, nei paesi ricchi, mentre nei paesi poveri, nonostante spesso il 40, 50, 60, alle volte 70% della popolazione vive in ambiente rurale, i paesi stessi, le nazioni di cui parliamo, investono meno del 10%, spesso intorno al 3-4% del loro budget nazionale in sostegno all'agricoltura, quindi c'è un disinvestimento fondamentale nel mezzo maggiore di produzione, che corrisponde sia a produzione di reddito e produzione di cibo. In genere devo dire che è un mix di scarsi investimenti e spesso di politiche che non sono stati efficaci. Se lei pensa ad esempio a uno dei numeri che io trovo più inquietanti in assoluto, noi abbiamo spesso in molti dei paesi africani che soffrono la fame in maniera maggiore, abbiamo spesso costi delle derrate alimentari che sono il 30, il 40, il 50, alle volte il 100% più alte di quello che erano 2 anni fa, cioè prima della crisi alimentare che ha colpito tutto il mondo. E stiamo parlando di paesi dove spesso il reddito medio è tra i 20 e i 30 dollari al mese. Quindi in realtà sono intrappolati in una tenaglia data da bassissimo reddito e altissimo costo del cibo che loro stessi producono. Professor De Muro, lei ha scritto qualche giorno fa, presentando proprio su Sole 24 Ore in uno speciale di più pagine il meeting della FAO che è in corso in questi giorni, che la fame nel mondo è un problema politico, diceva il titolo, che sicuramente non ha fatto lei, ma insomma per sintetizzare l'articolo in cui si affermava che la disponibilità dei prodotti agricoli negli ultimi 40 anni in realtà è aumentato, e se dobbiamo andare a vedere qual è la ragione per cui quindi la sottoalimentazione paradossalmente inversamente si estende invece che diminuire, la sintesi è che la fame nel mondo è un problema politico. Le chiedo di farci capire meglio che cosa intende con questo, però io invito anche a riflettere sul fatto che una delle ragioni, che a me tutto sommato non sembrano poi così trascurabili, del fatto che l'eccedenza di cibo, che è un fatto, risposta al professor Sartori che spesso continua ad ammonirci sul Corriere della Sera, dice attenzione siamo troppi nel pianeta, ecco, lui è diventato il capofila per antonomasia nel dibattito pubblico dei malthusiani che invitano a pensare a contenere le nascite, per così dire, ma l'eccesso di derrate nei paesi avanzati è anche poi frutto del fatto che noi continuiamo a essere iperprotezionisti in Europa, negli Stati Uniti, cioè nelle parti avanzate del mondo, sulla nostra agricoltura, infischiandocene allegramente del fatto che avere più concorrenza e libero mercato servirebbe anche a sfamare e a distribuire meglio le risorse alimentari nel mondo. Quindi a me sembra quello un primo fattore economico molto serio. Poi se uno va a vedere gli indici, gli indicatori dei mercati dei futures in questi ultimi anni, vede che la correlazione tra futures dell'energia e futures delle materie prime alimentari è diventata, non dico sovrapponibile, ma molto analoga, uno stesso ciclo con aumenti del 100-200%, che erano quelli, sono quelli che richiamava adesso il professor Alinovi, e che sono molto collegati a un fatto che anche in questo caso è dovuto a scelte dei paesi avanzati, cioè al fatto che noi abbiamo pesantemente investito nei biocombustibili a fini energetici, e allora quindi l'agricoltura è diventata una componente di un'economia molto volatile di prezzi, legata ai prezzi del petrolio. Allora tutte queste cose a me sembrano molto fattori economici, per così dire, ma professor De Muro, nel dire invece è un problema politico, lei cosa intende? Dunque, il titolo del mio articolo, naturalmente relazionale, sì, non è sbagliato, perché è un problema politico, questo lo dice anche Lula, fra altre cose, in un discorso famoso ha detto una cosa del genere, però io dicevo nell'articolo una cosa un po' più ampia di questa, cioè io dicevo sostanzialmente che è un problema di sviluppo e non semplicemente di sviluppo agricolo, cioè io dico sostanzialmente che per combattere la fame non basta focalizzarsi sull'agricoltura, sulla capacità di un paese di produrre, sulla capacità dell'Africa di produrre prodotti alimentari. L'agricoltura merita molta attenzione e tutte le cose che ha detto Alinovi sono giustissime. Io però vorrei dire che secondo me è più in generale un problema di sviluppo, perché se andiamo a vedere la quantità di cibo disponibile pro capite in molti paesi, anche africani, sarebbe sufficiente, eppure abbiamo una quantità di persone escluse dall'accesso al cibo. Per esempio prendo un paese a caso, veramente diciamo un paese problematico, il Sudan. In Sudan abbiamo 2300 calorie pro capite nel mercato interno, diciamo, fra importazioni e produzione interna, alla fine la disponibilità di 2300 calorie pro capite, però il 20% delle persone non riescono a comprare, ad avere abbastanza cibo e sono malnutrite secondo lo Sudan. Quindi se noi aumentassimo la produzione agricola anche del Sudan, siamo sicuri che questo 20% di persone riuscirebbe in ogni caso a comprare questo cibo sul mercato? Perché in molti mercati africani, se uno viaggia in Africa, anche io come Alinovi ho avuto la fortuna di poter vedere da vicino queste cose, il cibo c'è, raramente si trova, diciamo, situazione proprio di scarsità assoluta di cibo, malgrado quello che dicono i malthusiani. Il problema è che molte persone in Africa sono talmente povere, cioè non hanno reddito, non hanno terra, non hanno lavoro, non hanno potere d'acquisto, quindi questo cibo che sul mercato mondiale c'è non si riesce ad acquisire, e quindi queste famiglie soffrono la fame. Quindi io proponevo un problema più generale di sviluppo. Da un lato c'è anche un aspetto politico di questo processo di sviluppo, ma sicuramente è un problema proprio di sviluppo anche economico e sociale, nel senso che le politiche nazionali molto spesso di questi paesi sono inadeguati, perché bisognerebbe affrontare il problema di questi gruppi socio-economici svantaggiati che non riescono ad acquistare il cibo, e quindi da questo punto di vista c'è un problema di politiche nazionali, e da questo punto di vista le organizzazioni internazionali, io sono d'accordo con Alinovi, non possono fare molto se i governi nazionali, che hanno sostanzialmente la barra del timone, non hanno un'attenzione sufficiente e non hanno politiche adeguate a questo problema. A me colpisce molto nel dibattito di questi ultimi anni le posizioni che di nuovi economisti dello sviluppo emergenti degli stessi paesi africani, faccio un nome a caso, Dambisa Moyo per esempio, molto minoritari, ma che hanno iniziato la riflessione coraggiosamente dicendo: guardate che i paesi africani hanno un'autocritica da svolgere e i paesi occidentali hanno da riflettere intorno ai meccanismi multilaterali dello sviluppo, perché alla domanda, per esempio, richiamata adesso dall'intervento del professor De Muro sul come mai alla possibilità alimentare di calorie di 2300 pro capita al giorno, che sono più che necessarie, più che adeguate, voglio dire, per la sopravvivenza di quel 20% di popolazione del Sudan, di non accedere, Dambisa Moyo dice: ci sono due problemi. Primo, il tipo di regimi politici che abbiamo nel nostro paese; secondo, spesso anche il tipo di condizionamenti che voi occidentali tentate di esercitare quando regimi politici locali tendono a voler utilizzare le risorse che voi ci proponete nei vostri piani di sostegno bilaterale o multilaterale in maniera diversa da quella che gli occidentali a quel punto ritengono invece necessaria. L'esempio che si fa classicamente ritorna proprio tra quelli dei pochi paesi africani in cui la situazione è migliorata, e i Malawi sostengono le autorità del Malawi, per illustrare il loro caso di successo alla FAO, sostengono che a questo successo è figlio del fatto che loro hanno dovuto però impuntarsi, litigare con gli occidentali, che erano contrari a un programma di distribuzione di sementi a prezzo politico, quindi sostenuto internazionalmente e dal governo centrale del Malawi ai piccoli proprietari agrari del Malawi, e il governo del Malawi dice: abbiamo dovuto fare questo malgrado il no della comunità internazionale, che diceva: voi sussidiate pubblicamente, invece bisogna fare piani più vicini al mercato. E il Malawi dice: pensate, gli occidentali che sussidiano la loro agricoltura in termini quantitativi incredibili fanno a noi queste obiezioni, noi siamo riusciti invece a debellare, a diminuire molto il problema della fame proprio con questi criteri. Quindi diciamo che secondo me una riflessione un po' più profonda sui limiti delle politiche dello sviluppo da ambo le parti servirebbe. Sentiamo intanto anche le voci di voi ascoltatori, iniziamo con Mena da Modena, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Io volevo anticipare che sono d'accordo col professor Alinoi e non tanto col professor De Muro. Io penso che la FAO sorse perché bisognava debellare la fame nel mondo. La fame del mondo non l'ha debellata. Alla base io penso, almeno il mio pensiero, che per sviluppare questi paesi dovremmo iniziare a istituire un piano Marshall come è stato fatto con noi. Mettere in condizioni queste persone che quello che loro producono all'interno di consumarlo una parte loro, in modo da non essere costretti a comprare dall'esterno. Per di più, esportare questa roba. Nel momento in cui si esporta, si inizia a far entrare un'economia che funziona nel paese, come è successo da noi. Però alla base c'è questo, che se noi esportiamo ci danno degli incentivi a livello di agricoltura. Se importiamo dobbiamo pagare delle tasse, perché dobbiamo comunque mantenere il prezzo nazionale. Se esportiamo ci danno degli incentivi, e questo non è giusto, perché così non si metterà mai in condizione di poter sviluppare delle nazioni, e dovrebbe anche esserci una congiuntura internazionale, perché nel momento in cui il mondo economico ha deciso che doveva sviluppare la Cina ha iniziato a svilupparsi. Grazie. Grazie Mena, insomma, anche lì non è che siccome il mondo ha deciso che la Cina doveva svilupparsi, diciamo che la Cina si è costruita le condizioni attraverso le quali ha sostenuto il doppio deficit americano, quindi più che il mondo ad aver deciso che la Cina cresceva, era la Cina che si è messa in condizioni di sostenere l'economia di traino della crescita mondiale e contemporaneamente la più squilibrata del mondo, come era quella degli Stati Uniti. Bene, ora la pubblicità. Nove in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, stiamo tentando di analizzare insieme ai nostri ospiti, insieme alle vostre telefonate, i punti all'attenzione del vertice della FAO in corso da questa mattina a Roma. Abbiamo iniziato a interrogarci sulle ragioni per le quali, malgrado gli anni di intenso sviluppo che abbiamo alle nostre spalle, lo sviluppo più condiviso nella storia dell'umanità per quanto a volumi commerciali di scambio, ciò malgrado il bilancio dei morti per fame è peggiorato invece che migliorare, e abbiamo iniziato a interrogarci sui maggiori fenomeni economici, gli andamenti dei prezzi, delle derrate alimentari legate al protezionismo dei paesi avanzati, più intrecciate all'andamento dei prezzi energetici di quanto non fosse prima, da una parte, dall'altra i fattori della politica multilaterale allo sviluppo, le caratteristiche dei regimi di paesi, più delle volte africani, che rendono un ostacolo l'accesso a risorse che pure esistono da parte di una percentuale molto elevata delle proprie popolazioni. Vediamo quali altri fattori sono all'origine di questo, che sicuramente è una piaga rispetto alla quale non si può restare indifferenti. Si sono aggiunti dei nuovi ospiti, abbiamo con noi collegate, la ringrazio, Emma Bonino, vicepresidente del Senato. Buongiorno a lei. E Anna Meldolesi, una biologa, giornalista, scientifica bravissima, che scrive per Riformista e Nature Biotechnology. Buongiorno Meldolesi. Buongiorno. Bonino, dal suo punto di vista non bisogna essere un po' più critici di quanto non si faccia abitualmente negli sporadici articoli di stampa quando ci sono questi vertici, un pochino più critici verso gli strumenti multilaterali degli aiuti allo sviluppo? Faccio un esempio che ancora una volta si collega alle cronache: siamo reduci da anni di chiacchiere su Kyoto per energia eccetera eccetera, mi pare di capire che il vertice dei paesi asiatici in cui è impegnato nelle sue diverse tappe, adesso in Cina, il presidente americano abbia fatto tanti saluti agli obiettivi della conferenza di Copenaghen. Ecco, forse è il caso di essere un po' più concreti e realistici quando si tratta di concertazioni multilaterali di questo tipo, o no? Non è un po' fallito lo strumento, voglio dire? No, non credo sia questo, perché lo strumento in sé è il risultato poi di scelte nazionali, no? Perché chi si incontrano a questi vertici? Si incontrano i governi e le nazioni. Quindi effettivamente a volte è più facile fare un vertice, tra virgolette, che non fare scelte a casa propria. Quindi il fallimento o il non fallimento del vertice internazionale dipende in realtà dalle scelte che fanno i protagonisti, ed è chiaro che chi vuole spingere comunque, ci tiene comunque ad un vertice per vedere se si aprono certi spiragli, come succede anche. Però è vero che ce n'è spesso un'inflazione, ma soprattutto sono un po' scadenze, insomma, siccome sono previste, che ne so, una volta all'anno si fanno, perché se penso al vertice FAO che è in corso, innanzitutto non ci sono i grandi paesi donatori, se ho capito bene, e anche che sono contestualmente donatori francamente poco generosi, e secondariamente anche molto protezionisti, perché è evidente, ad esempio, ci sarà la Commissione europea, ma è evidente che uno degli elementi, non il solo ovviamente, ma uno degli elementi che frena anche lo sviluppo africano, per esempio in campo agricolo, è sicuramente la politica agricola europea, come quella protezionista degli Stati Uniti, per non parlare del Giappone sul riso. Ed è chiaro che tutti questo i paesi lo sanno perfettamente, e poiché non possono, politicamente parlando, o non se la sentono di togliere queste barriere, normalmente promettono o si impegnano a a palliare in qualche modo con interventi finanziari, che peraltro non è che siano poi di per sé così ingiusti. Il commissario Tajani, per esempio, da un po' di tempo, ma non riesce a trovare i fondi sufficienti, parla, per quanto riguarda alcuni paesi o macro regioni africane, di una necessità di infrastrutture, sia quelle fisiche che giustamente, insomma. Però, quindi ripeto, i vertici falliscono perché i protagonisti dei vertici stessi non riescono, per ragioni elettorali o politiche a casa loro, a prendere misure necessarie. Dicono però, d'accordo, non togliamo le barriere tariffarie, ma contestualmente immettiamo liquidità o, tra virgolette, aiuti allo sviluppo. Peccato che non è vero, perché anche quelli poi impegnati non vengono mai dati. L'alibi migliore è quello di dire tanto non funzionano, il che è anche vero, perché non sono fatti, a mio avviso, come sarebbe adeguato farli, e poi perché si considera che, ne so, che l'Africa è tutto un continente e quindi la stessa misura va bene per tutti i paesi. Non è affatto vero, ci sono dei paesi dove la governance o la classe dirigente, il sistema politico di alcuni paesi è veramente refrattario a qualunque tipo di sviluppo economico per la popolazione. Professore Alinovi, a questo proposito, cioè sul fatto che quando si tratta di sostegno allo sviluppo, siano bilaterali o multilaterali, non vale il principio che one size fits all, cioè non si può adottare una regola, un principio, una modalità organizzativa dovunque nel mondo che abbia le stesse conseguenze. E nella sua esperienza, come si è modificato nel tempo la capacità di interpretare le culture, le tradizioni organizzative, i diversi livelli di efficienza degli apparati pubblici di questi paesi ai programmi invece concretamente offerti da un'organizzazione come la FAI, cioè come fa la FAO, sia dal punto di vista dell'advisory che dal punto di vista della realizzazione tecnica? Come si è davvero perfezionata questa capacità di aderire alle diverse difficoltà oppure no, secondo lei? Io credo che sicuramente ci siano state delle grandi modifiche nel corso di questi ultimi anni, c'è stato molto più utilizzo del sostegno al budget del paese, c'è stato molto più ricerca di responsabilizzazione da parte dei governi. È vero che spesso gli strumenti non sono riusciti a raggiungere i risultati che volevamo, è vero che spesso sono di poca qualità, è vero che spesso le politiche non sono cambiate a sufficienza per poter permettere il successo del sistema. Voglio dare alcuni numeri perché è stato ripetuto più volte il rapporto tra sussidi e l'aiuto allo sviluppo. Bene, da stime fatte più o meno solide sia attraverso valutazioni dell'Ocse sia nostre interne, diciamo la somma totale prevista che nel 2007 fu computata come aiuto all'agricoltura dei paesi ricchi è di circa 365 miliardi di dollari. Quello che la FAO dice che c'è bisogno di investire nei paesi sono 44 miliardi di dollari, cioè stiamo parlando del 17% di quella cifra. Stiamo parlando di una cifra molto marginale rispetto a questi valori, cioè stiamo parlando di una cifra che ha un impatto molto piccolo, quindi quello che diceva prima sia la senatrice Bonino sia il professor De Muro è assolutamente corretto, c'è un intervento molto drogato del sistema della produzione agricola che rende molto difficile lo sviluppo agricolo in quanto tale. Ora è vero che dall'altra parte, e su questo io sono d'accordo con lei e credo che anche la dichiarazione che la FAO va ad approvare nelle prossime ore dà una grande responsabilità alle politiche nazionali, è vero che spesso politiche nazionali anche dei paesi in via di sviluppo non sono state sufficientemente aperte al mercato, sufficientemente disponibili a ingaggiarsi in un interscambio più efficace che permettesse all'agricoltura del paese di diventare anche un motore di sviluppo e spesso questo non accade adeguatamente. Noi facciamo moltissimo lavoro nell'aiutare a sviluppare le politiche adeguate e dove accadono crisi inaspettate anche a sostegni di breve periodo, però diciamo la mira delle politiche di sviluppo attuali sicuramente all'interno della FAO ma anche nel contesto internazionale è molto più di quello di sostegno alle politiche. Meldolesi, tra le tante responsabilità che come paesi più sviluppati abbiamo oltre a questa dannata protezionismo di cui ringrazio noi per averci fatto anche le cifre che come si vede ha effetti distorsivi altissimi, determinanti nell'impedire poi la soluzione al problema della fame, oltre a scelte come puntare su l'agricoltura per l'energia che ha avuto degli effetti diretti nel agganciare il ciclo dei futures delle derrate agricole a quelli molto volatili dell'energia, c'è anche una terza componente secondo me che nei paesi non sviluppati ci porta a esercitare poi delle conseguenze nefaste sul problema di cui ci occupiamo oggi, cioè noi contemporaneamente siamo i paesi che come tecnologia, le tecnologie bioalimentari abbiamo messo in campo ricerca, possibilità straordinarie di migliorare le caratteristiche delle sementi, di renderle meglio in grado di rispondere da sole a malattie, a degenerazioni, di essere più efficienti in termini di più numerosi raccolti con meno acqua eccetera eccetera da una parte, dall'altra negli stessi paesi scatenata negli ultimi decenni una reazione terribile, no agli OGM, sono il male, sono la maledizione, sono Satana eccetera eccetera. Vorrei una sua opinione su questo. Io sono stranamente a favore, mi pare un dannato ritorno dell'antiscientismo naturalmente non è che che penso che qualunque OGM sia buono, penso che si possa fare ricerca ben testata con conseguenze sicuramente nel pieno controllo che diano un contributo essenziale al fatto che in quei paesi, spesso a clima terribile, terreno aridissimo eccetera, occorre portare il meglio dell'investimento tecnologico per garantire il meglio dell'efficienza di produzione delle derrate. Ma secondo lei sono un po' troppo ideologico se dico che ci abbiamo la responsabilità da una parte di aver ideato l'arma per risolvere il problema e dall'altro invece di alimentare il tabù che grava sull'efficacia di quell'arma? Lei che dice? No, no, assolutamente, io sono d'accordo con lei e su questa linea si pongono alcuni degli analisti più raffinati, insomma, delle politiche agricole mondiali, per esempio come Robert Palmer che lavora negli Stati Uniti, ha lavorato all'International Food Policy Research Institute e adesso sta ad Harvard. E abbiamo una responsabilità, diciamo, lui e io credo, io con lui, insomma, sostiene che probabilmente il maggior ostacolo alla modernizzazione dell'agricoltura africana è stato forse il successo dell'agricoltura moderna in Occidente, nel senso che da una parte abbiamo smesso di investire in ricerca e sviluppo in agricoltura, avendo già raggiunto appunto dei grandi risultati, grandi miglioramenti in termini di produttività. Mendolesi, la ferma un secondo perché abbiamo le informazioni a ora fissa sulla circolazione stradale, riprendiamo esattamente da dove si è interrotta. Nove in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando dei temi all'attenzione del vertice FAO che si è aperto alle 9 questa mattina a Roma. Il Jacques Youf tra l'altro ha aperto i lavori lasciando subito la parola al Presidente del Senato Schifani, in rappresentanza di Giorgio Napolitano, il Capo dello Stato. Verso le 11:30 è previsto l'intervento di Papa Benedetto XVI. In mattinata, tra gli altri interventi di Capi di Governo e Capi di Stato, sono attesi quelli di Muammar Gaddafi e del Presidente brasiliano Lula e del presidente egiziano Hosni Mubarak, lo cui consorte ieri ha coordinato i lavori del meeting informale delle First Ladies. Ho interrotto Meldolesi, stiamo parlando della nostra duplice responsabilità da una parte di avere le armi tecnologiche, dall'altra di considerarle come il tabù invece. Prego Meldolesi. Sì, dicevamo appunto che siccome in Occidente abbiamo il frigorifero pieno, diciamo che si è un po' innescato un movimento di pensiero culturale che praticamente ci vorrebbe riportare, diciamo, a un rapporto di tipo nostalgico, insomma, con la produzione agricola e alimentare. Questo chiaramente è un lusso che forse qua possiamo permetterci, io francamente non sono neanche sicura che ce lo possiamo permettere qua, però sicuramente, diciamo, in altre parti del mondo è assolutamente del tutto fuori luogo. No, diciamo Meldolesi che i sostenitori di questo ritorno nella parte avanzata continuano a dire che lo si deve fare appunto con ancora più incentivi pubblici, cioè facendo ancora più protezionismo agricolo, chiusa parentesi. Infatti, il problema è che troppi governi in Africa in particolar modo, insomma, hanno subito questo tipo di influenze. L'influenza europea sulle elite africane è predominante rispetto diciamo all'influenza americana, e non è un caso che anche per quanto riguarda gli OGM abbiano trovato una recezione molto più aperta nelle zone di influenza americana, quindi nel Sud America, anche in parte dell'Asia. In Africa è andato diversamente, la nostra responsabilità si è attuata, la nostra pressione in queste zone anche attraverso altri attori, in particolar modo, diciamo, una maggior presenza europea nell'assistenza internazionale, anche a un forte attivismo di ONG che si oppongono alla modernizzazione in agricoltura e che portano questo tipo di diciamo, cultura europea, e infine diciamo anche il fatto che l'Europa è il maggior acquirente di derrate alimentari, per cui sostanzialmente vale la regola che il cliente ha sempre ragione. Questo tra l'altro ha portato un po' a rovesciare quello che era un luogo comune, diciamo, sulla globalizzazione. Si pensava che con la globalizzazione ci sarebbe stata una tendenza al ribasso per quanto riguarda, diciamo, i controlli, gli standard normativi, e invece paradossalmente l'Europa è riuscita a esportare il suo modello assolutamente iper precauzionale invece nei paesi in via di sviluppo. Quindi di fatto in Africa abbiamo paesi in cui sono stati importati modelli normativi basati sul quadro europeo, che francamente in paesi dove il problema è procurarsi da mangiare oppure morire di dissenteria eccetera eccetera appaiono un po' folli, nel senso che inseguono, diciamo, una valutazione del rischio del tutto anche teorico che in quei paesi appunto insomma ha davvero poco senso, anche perché stiamo parlando di prodotti diciamo che vengono commercializzati ormai dal 96, quindi diciamo quasi 15 anni, e mangiati da milioni di persone diciamo negli Stati Uniti, insomma, per certo chiamarlo rischio insomma un po', esatto, bizzarro. Diciamo con procedure di verifica che iniziano ad avere serie temporali molto significative. Bonino, cosa si aspetta lei dopo questo primo anno di amministrazione Obama, i cui esiti mi sembrano finalmente li si inizia a vedere un po' più criticamente di quanto all'inizio non sembrasse invece il giro di vite, ma da questo punto di vista, rispetto a ciò che ci diceva la Meldolesi, si aspetta che nel contesto degli aiuti multilaterali o nei programmi anche bilaterali, quelli più importanti, la diversità di segno tecnico, amministrativo, anche ideologico dell'impronta europea rispetto a quella americana andrà a diminuire? Saremo sempre più simili da questo punto di vista con Obama, che si avvicina verso modelli organizzativi, politici, ideali europei, oppure resterà una caratteristica, una divergenza di fondo? Io la mia opinione, glielo dico subito, e che resterà una divergenza di fondo. Mi pare che le scelte degli Stati Uniti in forte difficoltà, in crisi rispetto alla Cina più che all'Europa, tenderanno a nanizzare ancora di più l'Europa. Questo è il mio timore, ma mi interessava rispetto al discorso che stiamo facendo qui oggi per gli aiuti allo sviluppo, se lei pensa che invece gli americani ci ritroveremo più europei, più vicini a ciò che sosteniamo, o invece ancora più indifferenti a quello che diciamo come europei. Ma la mia impressione è duplice. Da una parte Obama ha obiettivamente altri problemi e altre priorità come Presidente degli Stati Uniti, e quindi non credo che in questa prima fase avrà un'attenzione particolare per quanto riguarda aiuti allo sviluppo, eccetera. Quello che però io ritengo è che noi dobbiamo fare un po' di lavoro a casa nostra, perché questa idea per cui appunto Obama ci risolve tutto, per fortuna, come in pochi dicevamo, ma comunque si sta rivelando che innanzitutto Obama è il Presidente degli Stati Uniti con una serie di guai, una serie di priorità per i suoi cittadini. E per esempio noi, io sono d'accordo con quanto dicevate prima, dobbiamo cominciare ad essere un pochino più adulti. Per esempio sugli OGM bisogna che cominciamo a sfatare tutta una serie di miti, stereotipi. Io proverò a farlo, facciamo adesso il 27 a Milano proprio una cosa sugli OGM. OGM e comunicazione, perché poi questo tabù si alimenta con tutta la parte informazione. Ha proprio ragione Bonino, perché poi i giornalisti è meglio su questo, che hanno le loro belle responsabilità, insomma. È una cosa non solo trasversale, bipartisan in Italia, che va da Le Manno alle COP sostanzialmente, passando per Repubblica, non parliamo della RAI. E noi abbiamo fatto proprio uno studio su come viene trasmesso e propagandato l'informazione sul cibo, la qualità del cibo, eccetera eccetera, e questa demonizzazione degli OGM, che poi segnalo, noi ne importiamo 40 milioni di tonnellate di soia geneticamente modificata, vorrei segnalare, insomma, quindi siamo anche a dei livelli di ipocrisia non da poco. Lo faremo a Milano il 27, cercando di rompere questo tabù, perché non solo è dannoso per quanto ci riguarda, ma ha molto a che vedere con il discorso che facevamo prima, e che in realtà imponiamo a parti dell'Africa, non a tutti, ma certamente a parte dell'Africa, con grande irritazione per esempio degli scienziati e degli agronomi africani. Ecco, a me piace particolarmente il fatto che siamo riusciti a toccare un punto nel quale la mia opinione è che l'informazione, il giornalismo deve stare attento, deve essere molto autocritico prima di dare la colpa soprattutto ai politici, agli economisti e così via. Io ringrazio Emma Bonino, ringrazio Anna Meldolesi, ringrazio il professor De Muro, ringrazio il professor Arinovi. Attenti tutti voi, rimanete in ascolto, perché Radio 24 seguirà con attenzione i lavori del Vertice FAO, non solo il proseguo dei GR ma con altre trasmissioni. L'appuntamento a domani. Grazie a Fabio Cantadori in regia e Alessandro Marco Tulli in redazione, a Linea Giornale Radio. Radio 24. La passione si sente.